si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato a tutti, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Partiamo alle 7:36 minuti, una veloce rassegna stampa sui giornali di oggi, poi giornale radio, riprendiamo subito dopo con Si può fare, andiamo avanti fino alle 10. Allora, 349-238-6666 se volete commentare quello che sentite, e anche su WhatsApp e poi la pagina Facebook, vi ricordo di tutti i nostri contatti, Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Vai, cominciamo. E allora, giornali di oggi che titolano sugli sviluppi in Gran Bretagna dell'omicidio del parlamentare laburista Cox, la pista neonazista, questo è il titolo del Corriere. Poi naturalmente la foto con l'esultazione di Eder dopo il gol al 43esimo minuto del secondo tempo contro la Svezia, che vale la seconda vittoria dell'Italia a questi europei e una qualificazione certa agli ottavi di finale. E questo grosso modo. Poi insomma ancora un po' di politica estera con l'eliminazione della Russia dal programma di atletica delle prossime Olimpiadi. Cominciamo con il Corriere della Sera. Il titolo, abbiamo detto, delitto Cox, pista neonazista, la deputata pro-Europa era stata minacciata ma non aveva protezione sulle borse. E invece l'altro titolo, con l'intervista anche al presidente russo Vladimir Putin, è proprio su Putin. Ho apprezzato le parole di Trump, Hillary Clinton cambierà se eletta. Il presidente russo che commenta: gli atleti russi esclusi dalle Olimpiadi, non si politicizzi il doping. Ma qui la politica c'entra poco, caro Putin, c'entra il fatto che gli atleti russi continuano ad allenarsi nelle basi militari dove nessuno può mettere il naso, e non è così che si fanno i controlli a livello internazionale sugli atleti, che ormai sono praticamente ovunque geolocalizzati e in qualunque momento devono poter fare i controlli, altrimenti salta tutto, salta la credibilità dello sport. Altri giornali, altri titoli. Londra scrive Repubblica: la pista dei neonazi. A proposito di Brexit, il governatore della Banca d'Italia Visco dice: pronto un piano anti-Brexit, ma in Italia l'Italia non rischia più di altri paesi. Su questo argomento il Sole 24 Ore: si riduce il panico da Brexit, rally in borsa con le banche, meno pressioni sui bond periferici, scrive il Sole 24 Ore. Il tema delle borse è importante, adesso vedremo perché, anche a livello di previsione sul voto europeo, perché questa risalita delle borse fa pensare che insomma, le conseguenze poi del voto, sul voto dell'omicidio probabilmente politico della parlamentare laburista Cox, possa essere a favore di un voto per rimanere in Unione Europea, ma della parte della Gran Bretagna. Ci arriviamo subito, resto sul Sole 24 Ore per ricordarvi che è partita la collana L'economia per la famiglia, è partita martedì e mercoledì scorso, non perdetevi i prossimi fascicoli che appunto saranno però in edicola con il numero 3 per tornare a crescere e poi il 4 il PIL e i conti dell'Italia, ma a partire da martedì e mercoledì prossimi. E invece, a proposito di Brexit, dicevamo cosa dicono i sondaggisti. Il sondaggista Ben Page, che guida Ipsos Mori, società di sondaggi, a proposito della Gran Bretagna, dice: la tragedia dell'omicidio potrebbe spostare i voti verso l'Unione Europea. Siamo sul Corriere della Sera. Quali sono i segnali di questo spostamento di voti? Innanzitutto, dice il sondaggista, lo conferma il rialzo della borsa e della sterlina immediatamente dopo l'annuncio dell'omicidio, il che suona terribile, ma Significa che i mercati hanno reagito all'informazione, deducendo che un maggior numero di elettori voteranno per restare nell'Unione Europea. In secondo luogo, bisogna contare sull'effetto status quo, che è presente in molti referendum. La gente tende a votare per il mantenimento dello status quo. Quando c'è incertezza, questo succede ancora di più. Quando l'opinione pubblica è spaventata o disgustata per un evento, questo effetto aumenta ulteriormente. Ci sarà un forte movimento di empatia verso Joe Cox e i suoi familiari, molti indecisi che magari propendono per l'uscita dall'Unione Europea, ma ai quali non piace l'estrema destra, e a questo punto potrebbero ripensarci. Allora, sulla questione, su cui titola anche per esempio La Stampa, del doping, ma c'è anche il tema delle sanzioni europee. Doppio schiaffo a Putin tra doping di Stato e proroga delle sanzioni. L'Unione Europea rinnova l'embargo alla Crimea, Mosca accusa senza equilibrio è guerra fredda, e c'è anche il viaggio di Matteo Renzi proprio in Russia. Allora andiamo sulla Stampa. E intanto leggiamo a proposito della questione del doping. L'atletica internazionale, scrive La Stampa, ha mutilato la Russia, ha tagliato l'atletica dalle prossime Olimpiadi. Si parla di un pezzo bello grosso dell'orgoglio nazionale russo. Metallo pesante, 17 medaglie collezionate a Londra alle Olimpiadi del 2012. La Russia, che ha sempre modellato la sua immagine sui successi sportivi, è già fuori dalla classifica del medagliere e perde ogni credibilità con una decisione netta e unanime che parla di doping di Stato, e una motivazione che non potrebbe essere più tagliente. Non hanno fatto nulla per rispondere ai requisiti di riabilitazione richiesti dopo i numerosi casi di doping che ci sono stati in Russia. Non hanno mai negato, prosegue la motivazione della Federazione Internazionale di Atletica, non hanno mai negato di aver ereditato il sistema sovietico, non hanno mai cambiato, sono almeno 2 anni lontano da qualsiasi possibile reinserimento. La task force, formata per giudicare la buona volontà della Russia, ha visto solo una grande strafottenza, l'abitudine a seguire percorsi alternativi, modelli chiusi, la volontà di non interagire con il sistema che localizza l'atleta sul computer, lo vuole reperibile un'ora ogni giorno per testarlo e controllarlo, anche solo per sapere dov'è. I russi si ostinano a scegliere i centri militari come sedi di allenamento perché sanno che nessun ispettore occidentale ci potrà mai entrare. E questo è il braccio di ferro tra la Russia e la Federazione Internazionale di Atletica sulla questione del doping. Giudicate voi. Intanto La Stampa ci ricorda la visita di Renzi in Russia e la sponda di Renzi allo zar sul tema delle sanzioni. L'altro tema, perché l'Unione Europea non molla la presa e proroga il sistema, il pacchetto di sanzioni sulla Russia. Renzi cerca di rompere l'isolamento russo e bacchetta l'Ucraina. Succede che Renzi dice: abbiamo fatto degli sforzi per arrivare al protocollo di Minsk, e tutti, dico tutti, qui sta la sottolineatura che adesso andiamo a vedere, devono rispettare gli accordi. Per chi non avesse capito, Renzi specifica meglio chi siano tutti. Tutte le parti, non una sola, quindi non soltanto i separatisti filorussi, cioè la Russia deve rispettare gli accordi sulla questione Ucraina-Crimea, ma anche il governo ucraino, che fa capire Renzi sino ad ora non sta rispettando parti dirimenti di quel protocollo. Uno su tutti, l'attuazione della nuova costituzione federalista, che attribuendo poteri alle realtà locali è osteggiata dal governo di Kiev. Come dire, anche i nemici di Putin stanno violando gli accordi. E questa è la posizione di Matteo Renzi, salito in Russia, vedete voi, insomma andato in Russia a incontrare Putin. C'è l'informazione sul traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno ascoltatori, ben ritrovati in diretta su Radio 24 con Si può fare. Stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi. Restiamo all'estero, abbiamo appena finito di leggere del viaggio di Matteo Renzi in Russia, della questione della doppia questione russa, cioè lo schiaffo del doping della Federazione Internazionale di Atletica che esclude la Russia dalle Olimpiadi, nell'atletica, dalle prossime Olimpiadi, e la proroga delle sanzioni europee nei confronti della Russia. C'è un'altra notizia che viene dall'estero, è una buona notizia, ce la ricorda in prima pagina Repubblica, sul fronte della guerra all'ISIS, perché in Iraq Fallujah torna irachena, il califfo perde terreno. Fallujah, città simbolo della resistenza sunnita all'invasione americana, a suo tempo diventata poi roccaforte dello Stato Islamico, è di nuovo sotto il controllo degli iracheni. Vale la pena leggere qualcosa dal racconto che viene fatto su questa situazione. Le truppe governative hanno riconquistato il centro della città, spingendo il governo a rivendicarne la riconquista e innalzando il vessillo tricolore rosso, bianco e nero, il vessillo iracheno, sui palazzi governativi del centro, costringendo alla ritirata gli integralisti dell'ISIS, ormai rifugiati in un ospedale e in alcune zone periferiche. A proteggere l'avanzata dei governativi c'era l'aeronautica della coalizione americana, che per giorni ha bombardato le postazioni dell'ISIS, ma lo sforzo maggiore è stato fatto dai soldati di Baghdad e dalle milizie paramilitari sciite. Dopo la ripresa di Ramadi, la caduta di Fallujah segna un'avanzata complessiva. Adesso il prossimo obiettivo è riconquistare il triangolo sunnita, che comprende anche la città di Mosul, anche questa sarebbe un simbolo, perché è la roccaforte dell'ISIS in Iraq, come Raqqa è la capitale dell'ISIS in Siria. La battaglia per Mosul, però, scrive Repubblica, e anticipando quello che accadrà, sarà molto più dura, con 2 milioni di civili ostaggio dell'ISIS trasformati in scudi umani che impediscono ogni idea di bombardamento a tappeto, cioè qua non si potrà intervenire come si è fatto per recuperare Fallujah, cioè anche bombardando dall'alto tramite appunto l'aviazione della coalizione americana. Adesso invece torniamo in Italia. Beh, intanto per questa notizia che c'è sul Libero, che riguarda lo sciopero dei controllori di volo dell'Alitalia, che è avvenuto ieri, era uno sciopero nazionale previsto, però ha coinciso con l'orario della partita di calcio. A Roma, a Fiumicino in particolare, sono stati cancellati oltre un centinaio di voli. Libero titola: Alitalia non vola per vedere la partita, un calcio a chi viaggia, sciopero in massa. Succede appunto che, scrive Franco Bechis, 2 vittorie dell'Italia e 2 scioperi a Roma per potersi godere in santa pace le mirabolanti gesta di Giaccherino, scrive ironicamente Bechis e Dieder. L'esordio fu alle 21, incrociarono le braccia gli autisti dell'azienda dei trasporti della capitale, l'ATAC. Ieri, per godersi la Svezia, hanno scioperato invece i controllori di volo nell'orario giusto, dalle 13 alle 17, in modo da riempirsi con calma la pancia e poi godersi la partita degli azzurri. Grazie a loro, all'aeroporto di Fiumicino sono stati cancellati ben 115 voli, 56 in partenza e 59 in arrivo. Lo sciopero, a dire il vero, era nazionale, scrive sempre Bechis su Libero, e su questo si era innestato quello di 2 sigle sindacali, Unica e Licta. La strage di voli però c'è stata solo a Roma, perché lì fra i controllori di volo deve essere scattata la minaccia: chi non salta 4 ore Ibra è. Va bene, queste coincidenze di scioperi fanno riflettere. Poi prosegue Bechis, attaccando un po' Roma: non è che le istituzioni della capitale possano dare chissà quale lezione ai controllori di volo dell'Alitalia o all'autisti dell'ATAC. La partita alle 15 di ieri deve avere sottratto una discreta parte del PIL mensile di Roma. A quell'ora la città sembrava fantasma, i lungotevere di solito intasati erano scorrevoli come il 15 agosto, i ministeri sembravano lugubri cattedrali nel deserto. Sì, va bene, tutto bene, ma non è che se entravi in un ufficio qualunque ieri non era la stessa cosa, caro Bechis. Se andavi anche in un'azienda privata dove si poteva, o negli studi dei professionisti o altrove dove si poteva, si guardava la partita. Questo è ovvio. Quindi va bene porre l'attenzione sicuramente su questi scioperi in coincidenza con le partite di calcio, ma dire che a Roma ieri i ministeri erano fermi o che Lungotevere erano deserti, beh, insomma, va bene, ma di cosa scandalizzarsi? Cioè, c'è la partita della nazionale, da che mondo è mondo, è sempre successo, ma non è un privilegio dei dipendenti pubblici, è un qualche cosa che cerca di fare chiunque può farlo, anche, ripeto, nelle aziende private. Ieri moltissimi di noi, lo sanno tutti, erano davanti agli schermi, almeno per una parte della partita. E allora godiamocelo questo risultato dell'Italia, andiamo sulla Gazzetta, la Gazzetta dello Sport, che battuto Ibra, siamo agli ottavi, l'Italia passiva ma nella ripresa scossa, Zaza e super gol dell'interista nel finale, mercoledì ce la giochiamo con l'Irlanda. Andiamo a vedere all'interno le pagelle, 7 a Bonucci, 7 a Chiellini, scusate, 7 a Barzagli, 6 e mezzo a Bonucci, 7 a Chiellini, tutti i voti sufficienti, ma la difesa come sempre italiana svetta. A proposito di Barzagli, la Gazzetta si lancia in questo paragone: a tratti pare un soldato medievale con l'armatura, lo scudo e lo spadone, gli svedesi sono grossi, ma Barza li rimbalza uno ad uno con la calma di chi ne ha viste e vissute tante. E poi il 7,5 Haider, a lungo per tutti, mai per se stesso, si spreme a rincorrere maglie gialle, pressioni, raddoppi, tackle, contributo al fatturato del lavoro sporco, poi il gol prepotente, liberatorio, bello, e in effetti è stato un gran bel gol. Ma ancora uno sguardo alla giornata di oggi: alle 15 a Bordeaux si gioca Belgio-Irlanda, che riguarda il nostro girone, alle 18 a Marsiglia Islanda-Ungheria, questa sera alle 21 a Parigi Portogallo-Austria. Mi sta partendo la voce. A punteggio pieno per il momento ci sono l'Italia, la Francia e la Spagna, 6 punti. Poi a guidare i loro gironi con una vittoria e un pareggio a 4 punti, l'Inghilterra e la Germania. Voglio però chiudere con il meteo, perché il Corriere della Sera, perché piove così tanto? E c'è tutta una spiegazione, addirittura a Milano è nata una pagina Facebook, non lo sapevo, pioggia dalle 18 a Milano, che ha già raccolto 43.000 partecipanti, perché in effetti ogni giorno è così, nel pomeriggio verso sera parte il pioggione, un pioggione quasi tropicale, ed è questo il punto. Intanto questa è una primavera che, come quelle degli anni 80 e 90, ricordano, dicono i meteorologi, molto fresca, non come quelle caldissime estati che iniziavano appunto a maggio. E fin qua uno potrebbe dire bene, ma le anomalie ci sono, perché al di là della quantità d'acqua caduta conta il modo. I rovesci sono improvvisi, intensi e brevi, assomigliano sempre più a temporali tropicali, lo dice l'ingegner Antognazza dell'Italian Climate di Network. Insomma, il surriscaldamento globale porta a cambiamenti specifici a livello locale e gli eventi meteorologici tipici delle zone più calde iniziano a verificarsi pure alle nostre latitudini. Se la pioggia raffredda la primavera, la febbre del pianeta non accenna a guarire. È tutto, GR, ci risentiamo subito dopo, non si può fare. Ciao. Dopo. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Quando sono le 8 e 17 minuti e riprende una nuova puntata di Si può fare, buongiorno da Alessio Maurizi, un saluto a Carlo Gabardini che non c'è perché sarà al Gay Pride di Firenze, quindi non è potuto esserci. Noi invece ci siamo, e tutta la settimana in realtà che ci siamo, la mattina, a 24 mattina al posto di Alessandro Milan, che rientrerà lunedì prossimo al suo posto, e noi andiamo avanti anche nel weekend. Allora, 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo per commentare quello che volete che sentite. Per esempio in rassegna stampa ho letto l'articolo di Libero che parlava della coincidenza tra lo sciopero dell'Alitalia e, guarda caso, la partita di calcio della nazionale italiana dalle 13 alle 17. Sciopero all'Italia a Fiumicino, tutto bloccato. Poi questo stigmatizzabile, questa coincidenza, così come fu per lo sciopero dell'ATAC all'esordio dell'Italia agli europei. Però io poi me la sono presa con Franco Bechis, che parlava di una Roma deserta, degli uffici pubblici deserti, e ho detto semplicemente: questo accade anche negli uffici privati, anche in molte aziende. Se possibile si interrompe o si rallenta il ritmo di lavoro per vedere la partita. E allora gli ascoltatori che scrivono: ovvio, smettere di lavorare per la partita è triste, nella mia azienda si lavorava, altro che ministero. Caro ascoltatore, che non ti firmi, sicuramente non ho detto che ovunque ci si è fermati ed è giusto così, ho detto che dove si poteva, anche nei luoghi di lavoro privati, ci si è fermati a dare un'occhiata alla partita, si è rallentato il lavoro dove era possibile, negli uffici dove si può recuperare il tempo perso l'ora successiva, non magari nelle aziende dove c'è una catena di montaggio o altre cose di questo genere, o dove ci sono gli uffici di necessità pubblici e privati. Questo credo che sia un discorso generalizzabile. Quando c'è la partita di calcio i ritmi rallentano. 800 24 00 24. Allora, piccolo menù della mattinata. Partiremo dall'approvazione del decreto sulle botteghe storiche. Il decreto approvato questa settimana dal Consiglio dei Ministri è solo un decreto di principio, ma vuol tutelare le botteghe storiche. Tutti vorremmo avere nel nostro quartiere dei negozi, e meglio se sono negozi storici. Vedremo se questo decreto coglie nel segno. E poi conosceremo uno studente Erasmus in Inghilterra, perché una delle conseguenze di Brexit potrebbe essere proprio la difficoltà ad andare a studiare in Inghilterra, una meta classica per gli studenti italiani ed europei tutti, e questo sì che sarebbe un peccato, al di là di tutte le altre conseguenze di Brexit. Naturalmente parleremo con Anna Maria Testa, pubblicitaria, a proposito della decisione del sindaco di Londra di controllare, vagliare, forse censurare le pubblicità che espongono i corpi femminili in maniera degradante. Qualcuno parla di un sindaco che mette il burka alle donne, altri parlano di una campagna partita proprio dalle donne, che c'è anche in altre città, per così evitare che proprio tutte le pubblicità con i corpi super svestiti delle donne in tutte le posizioni immaginabili, possibili immaginabili, vadano in onda sugli schermi delle pubblicità nelle metropolitane o altrove. Questo però dopo le 9 incontreremo Anna Maria Testa. Adesso cominciamo, 800 24 00 24, poi c'è tempo anche per giocare con noi. I biglietti e il catalogo della mostra di Miró al MUDEC di Milano, se ci chiamate e ci raccontate la vostra esperienza in un ristorante, l'esperienza peggiore che avete avuto, perché è facile parlare bene, come è successo per esempio per Bottura, lo chef italiano che in settimana si è piazzato al primo posto nella classifica mondiale dei ristoranti di super eccellenza con la sua osteria francescana. Siamo molto contenti per lui naturalmente, e volevamo santificare questa notizia, però vi chiediamo di raccontarci anche le vostre esperienze terribili, perché a volte si va anche in dei ristoranti che magari hanno delle pretese, avanzano delle pretese di alta cucina, e però poi si esce o con la fame o addirittura col disgusto. Può succedere. Allora potete sfogarvi questa mattina ai nostri microfoni, 800 24 00 24. Verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi, non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi, ma odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, inventa qualche balla, attirano la folla, corrito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Con questi Pancreas, polenta e kebab esordiamo oggi sull'argomento botteghe storiche, perché se da un lato la norma approvata dal Consiglio dei Ministri questa settimana vuol tutelare le botteghe storiche, dall'altro molti giornali hanno titolato Stop Kebab nei centri storici delle città italiane. Il kebab a simboleggiare il negozio che non è la bottega storica, non è il negozio di eccellenza, non è il centro commerciale da valorizzare nei centri storici. Apripista di questa misura è stata Firenze, adesso segue la possibilità per tutti i sindaci di adottare misure di questo tipo. Noi ne parliamo con Stefano Pizzolato. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Che è il presidente dell'associazione Negozi Storici di Eccellenza nella città di Roma. Intanto le voglio chiedere, beh, insomma, ho già detto, tutti noi vorremmo avere tanti negozi nel nostro quartiere, meglio se sono botteghe storiche, siamo ancora più contenti. Voi siete soddisfatti dell'approvazione di questa norma? Allora, questo progetto di legge o questa legge ci sembra un passo molto importante, perché è un segno di considerazione nei confronti delle attività storiche delle città, quindi ritengo che sia un primo passo molto importante su cui ovviamente bisognerà lavorare. È una cornice perché a cui bisognerà scrivere i contenuti, dare dei contenuti, esatto. Per questa cornice, in realtà, io lo anticipo, poi me lo può spiegare meglio lei, prevede che ci sia la possibilità da parte dei sindaci di verificare se intanto parliamo di nuovi negozi o di negozi anche esistenti, questo si è capito? Parliamo di nuovi ed esistenti. Quindi in entrambi i casi, cioè se uno vuole aprire un nuovo negozio, ma anche le licenze che già ci sono, se sono compatibili, e questa è la parolina magica, la compatibilità con cosa? Con la tutela, la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico, architettonico dei nostri centri storici. Quindi su questa parola compatibilità si può immaginare che possa succedere di tutto anche, no? Diciamo che il tema è abbastanza ampio. Intanto è importante iniziare una discussione, perché ci sono città tipo Roma che si sono mosse anche in passato nel tentativo di regolarizzare questa materia o di dare un indirizzo. Se si fa a livello nazionale è sicuramente molto più importante, perché si uniforma questo tipo di impostazione. Compatibilità, intanto parliamo del fatto che si cerca di dare con questo strumento, si cerca di dare con questi strumenti un maggior decoro e comunque una maggiore qualità ai centri storici delle città. Sì. Quindi sicuramente. Ma infatti la ratio è chiara, il problema poi è capire come si sostanzia questa idea del decoro e della compatibilità col centro storico, perché quello che può essere decoroso magari per lei può esserlo anche per me, ma non può esserlo per un'altra persona. Forse questo è un po' il punto da chiedere. Per esempio Firenze, che è una città dove questa norma in qualche modo è già stata voluta e introdotta dal sindaco della città Nardella, e sembra quasi che questo decreto nazionale sia come dire, una conseguenza di quello che è stato fatto a Firenze. Avete capito come è stato interpretato, come è stato fatto, che cosa è stato concesso e cosa è stato proibito a Firenze? Allora, intanto l'indirizzo è quello di cercare di dare maggiore risalto o comunque maggiore tutela a quelle che sono le attività storiche tipiche della città, quindi cercando di non far sparire quelle attività che poi hanno dato lustro negli anni al tessuto commerciale. Quindi il concetto proprio di bottega storica, per cui il negozio, negozio storico, la merceria che è lì da 40 anni, oppure la ferramenta che è lì da 80 anni o cose di questo genere. Non solo, anche attività storiche di pregio, perché ci sono ristoranti storici, ci sono bar storici, abbigliamento storico, gioiellerie storiche, c'è veramente un po' di tutto, perché nella categoria ci sono sia artigiani che negozi storici di tradizione. L'idea è comunque, il punto di partenza è quello di cercare di mantenere il più possibile questo tessuto commerciale, ovviamente non mantenerlo a tutti i costi, cioè mantenerlo lì dove esiste un tessuto commerciale attivo, produttivo, un tessuto commerciale che riesce a stare al passo con i tempi, e anche se è storico, noi sosteniamo che molto spesso le attività storiche sono attività che riescono a stare al passo con i tempi, perché hanno tramandato di generazione in generazione quelle tradizioni, quel modus operandi che comunque gli ha permesso di andare avanti. Ovviamente noi siamo molto interessati che i centri storici delle nostre città siano sempre ben presentabili, perché comunque un centro storico che presenta delle attività di pregio che non sono solo per forza le attività storiche, ma possono essere comunque anche altre attività, sì, ma danno un lustro alla città e quindi attraggono turismo, muovono l'economia, danno la possibilità anche di maggiori investimenti. Questo è sicuramente il significato che ha questo strumento, sì, che si vuole dare con questi strumenti. Allora, ora, spero che in vista dell'approvazione di questa norma, cioè soprattutto della definizione dei contenuti di questi criteri di compatibilità, cioè andare a vedere poi proprio i dettagli di questa norma, poi si scoprano anche, si facciano delle scoperte positive, per esempio che ci siano, che ne so, anche magari degli incentivi economici a chi cerca di tenere aperta una libreria in un centro storico o anche altri punti come cinema, vecchi teatri, vecchi cinema che vanno chiudendo, vanno scomparendo e hanno un valore di, sociale, di aggregazione, oltre che commerciale, così come aiutare a pagare l'affitto anche a botteghe storiche che hanno un valore sicuramente e tante volte non riescono a stare al passo con questi prezzi, con questi affitti, quindi magari incentivi, più che inserire dei, questo è il mio punto di vista personale, dei divieti su quello che si può mettere o non si può mettere, perché io credo che il turista, ma anche il semplice cittadino, abbia il diritto a trovare, che ne so, il kebab alle 2 di notte anche in un centro storico, piuttosto che no, a fianco naturalmente alle botteghe storiche che fanno il loro lavoro, oppure può valere anche per il camion notturno dello street food che adesso va molto di moda, perché per esempio kebab no, pizza sì, ma se si trattasse di mercatini, quelli sa degli agricoltori a chilometro zero, questo secondo lei, le chiedo la sua opinione, potrebbe essere compatibile o no con un centro storico come quello di Roma, per esempio? Allora, sgombriamo il campo da un punto importante. Io ritengo che nessuno è contrario a nuove attività, quindi noi non siamo contrari a nessuna nuova attività. Noi siamo contrari ad attività che non rispettano le regole o comunque che non rispettano il decoro. Certo. Quindi se ci sono attività, qualsiasi tipo di attività che rispetta, che rispettano le leggi, che rispettano le regole della città, che rispettano il decoro della città, hanno comunque la possibilità di esistere. Quindi siamo assolutamente aperti, noi non siamo negativi contro altre attività. È un po' quello che volevo dire io, cioè più che una norma negativa che vieta, una norma positiva che aiuta chi fa un buon lavoro. Assolutamente. E poi quando si parla di sostegno, molto spesso si parla di finanziamenti o di agevolazioni. Noi riteniamo che il modo migliore per sostenere queste attività è farle conoscere, quindi valorizzarle in tutti i modi possibili. Quindi se noi facciamo conoscere queste attività storiche nei confronti ovviamente dei cittadini e che vivono la città, ma anche e soprattutto di chi visita la città, che possono essere italiani che viaggiano per turismo o stranieri che viaggiano per turismo, sicuramente si fa un servizio sia all'attività storica sia alla città, perché il sostegno maggiore è quello di far conoscere le attività. Poi ci sono anche tanti strumenti che possono essere posti in essere da agevolazioni fiscali, da sostegni o finanziamenti per il rinnovo del locale, però questi devono essere posti in secondo piano. Il primo piano è sicuramente un sostegno di tipo conoscitivo, cioè bisogna fare in modo che queste attività vengano conosciute. Certo, per esempio essendo inserite nei circuiti, nei momenti di comunicazione che il comune fa, anche nella comunicazione istituzionale ufficiale, segnalare che ci sono queste botteghe storiche e anche fare in modo appunto che la gente lo sappia e ci possa andare, altrimenti non è inutile avere il negozio storico se poi non lo sa nessuno. Assolutamente sì. E poi devo dire che in questo momento particolare c'è un'attività molto importante da parte delle attività storiche. Noi a Roma, per esempio, ci siamo gemellati sia con Firenze che con Genova. Sì. Quindi abbiamo unito tre città molto importanti sia dal punto di vista storico che turistico. Stiamo cercando di fare una rete per cercare proprio di far conoscere quelle che sono le attività storiche che ci sono nelle diverse città e quelle che sono anche le principali manifestazioni culturali che si svolgono nelle varie città ai cittadini residenti. Quindi per esempio a Roma noi facciamo conoscere le attività storiche di Firenze e di Genova e viceversa a Genova e Firenze. Questo tipo di lavoro che comunque nasce da una volontà privata, perché ovviamente tutto nasce dal privato, è un tipo di attività che può sicuramente favorire decisioni nell'ambito della riqualificazione e decoro delle città e può sostenere l'attività delle istituzioni. Quindi trovano già un terreno fertile di attività o di negozi storici, di botteghe storiche, di artigiani storici che si sono messi insieme perché per dare decoro, per dare prestigio e pregio alla città, quindi nel Benissimo. Rispetto delle regole. E allora aspettiamo che questa norma, che per ora è solo una norma di principio approvata dal Consiglio dei Ministri in settimana, diventi una norma concreta, ci siano i cosiddetti decreti attuativi, si entri nel merito e si diano a questi negozi storici modo, incentivi, ma anche abbiamo detto, facendoli conoscere, modo di sopravvivere, di continuare a presidiare i quartieri, magari non solo dei centri storici, perché poi si parla giustamente dei centri storici che hanno valore per i turisti, ma i negozi e i negozi di valore storico e culturale, è bello averli in tutti i quartieri. Io la ringrazio, Stefano Pizzolato. Grazie a lei. Grazie per essere stato noi, presidente dell'Associazione dei Negozi Storici di Eccellenza a Roma. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi ha convinto questa norma del governo e il modo in cui ne ha parlato anche il presidente dei Negozi Storici di Roma? Se sì, ma anche se no, chiamateci, vi aspettiamo. E anche per raccontarci, visto che in settimana è una buona notizia, Chef Bottura è andato in cima alla classifica dei migliori ristoranti al mondo, le vostre esperienze con i ristoranti potete sfogarvi, anche raccontarci quella volta in cui invece è andata male, siete entrati in un ristorante e siete usciti o che avevate ancora fame o disgustati, a volte capita. La vostra occasione per sfogarvi, perché a volte ristoranti che hanno molte pretese però finiscono per volare bassissimo. 800 24 00 24, vi aspettiamo. E allora al 349-238-6666 su WhatsApp Cristiana scrive: il punto è proprio il decoro, andrebbero protette anche le periferie e non solo il centro. È quello che dicevo, intendevo dire anch'io, perché va bene prendere di mira le botteghe storiche e tutelare i centri storici come quello di Firenze, che è patrimonio dell'UNESCO, va benissimo, perché quando vanno bene i centri storici vanno bene le città, perché il centro trainante con tutti i turisti che vanno a visitare le città storiche italiane, però bisogna pensare anche alle periferie. E allora andiamo al numero verde 800 24 00 24 a Massimo da Caserta. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Massimo, su cosa volevi intervenire? Niente, è un'esperienza bruttissima su un ristorante su ai Camaldoli, un quartiere di Napoli. Ok, che è successo? Niente, le faccio breve, abbiamo avuto un'intossicazione da cozze. Ah. Era un ristorante che frequentavamo spesso, perché all'epoca un mio cognato veniva sempre all'aeroporto, lo andavamo a prendere e ci fermavamo sempre in questo posto. Quindi era un posto che conoscevate, insomma. Sì, conoscevate, frequentavamo, infatti non ce l'aspettavamo proprio. E già mangiavamo la classica sudè di cozze con il bruschettone sotto. E già al momento me ne accorsi, perché io ho una famiglia molto numerosa. A una delle mie tre sorelle dissi: guarda Emilia, ma strano, stasera stranamente la riempite d'olio, ma me ne faccio una con il limone. Oddio. Addio. Al momento già io personalmente già mi sentii male, infatti dissi al gruppo della mia macchina, dissi: ragazzi, io già mi sento un po' male, però non l'associai al piatto che avevamo mangiato. Ma intossicazione che vuol dire? Che sei stati male un giorno, poi è passato tutto? No, io sono una famiglia, siamo 5-8 sì. fratelli. Uno, mio fratello Francesco, lo dovevamo proprio ricoverare perché non ce la fece. Ah, cioè, proprio ricoverato. Io, in quel periodo che stavo andando a dormire a casa dell'amichetto mio, te la faccio così perché lo racconto il posto, perché è mostruoso, nel senso che io la notte mi svegliai, chiamai questo amico mio e dissi: guarda, Nunzio, io mi viene da vomitare, io non ce la faccio più. Il mio amico disse: vai a vomitare in bagno. Anche che erano state presenti, perché erano una ventina di persone, anche i fratelli del mio migliore amico. Ma eravate una marea. Vabbè, insomma, adesso i dettagli Massimo evitiamo, perché c'è pure la denuncia, quella là, sì. Classica. No, i dettagli sul malore. Comunque, insomma, intossicazione da cozze in un ristorante dove andavate abitualmente è una bella delusione, peccato. Grazie Massimo, io di correggere il tiro, ma insomma, mi piacerebbe che ci fosse qualche telefonata, soprattutto su come scrive per esempio un ascoltatore che non si firma: questi cuochi stellati sono l'espressione più alta della fuffizzazione della società contemporanea. Ecco, io non mi riferisco a Bottura, però a volte può succedere di andare in grandi ristoranti con grandi ambizioni e si rimane delusi, perché magari non si è neanche capito il piatto che ci è stato offerto, cucina molecolare piuttosto che cucina all'avanguardia. Questo può essere anche più divertente da raccontare. 800 24 00 24, vi aspetto. Intanto c'è Ferdinando da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego Ferdinando. No, io vorrei dire solamente una cosa, dato sì. l'articolo, ciò che avete detto sui negozi. Sì, sui negozi storici, se, sì. Se lei va a Roma dall'hotel Excelsior, che c'aveva davanti il Café de Paris, fino a, diciamo, anche fino a Piazza del Popolo, sì. Decine e decine e decine, quindi vicino a Piazza di Spagna, decine e decine di negozi sono chiusi, abbandonati, sì. perché furono in mano, dicono, alla mafia. Però nessuno ha provveduto a ripristinare il decoro. Quindi la... Cioè, mi scusi, lei sta dicendo che ci sono dei negozi che sono stati chiusi... Decine, non è uno, decine. Ma chiusi perché chiusi, sotto sequestro, chiusi. Perché secondo la magistratura erano... sotto sequestro o per un'altra cosa, ma sono completamente chiusi, cioè... Il turista che viene, cioè, a Roma, i negozi chiudono, il punto è qui, nel centro storico di Roma chiudono, i negozi chiudono. E nessuno provvede non a riaffittarli, sì. ma nessuno a mantenere pulita quella zona. Quindi sì. il turista che viene a Roma e vede che ci sono tutti, la maggior parte dei negozi più belli di una volta, come il Café de Paris, esempio, sì. completamente chiusi, completamente abbandonati. Ma le faccio una domanda, Ferdinando, di fronte alla chiusura di questi locali storici, secondo lei sarebbe meglio, potendo farli riaprire, quei stessi locali storici, capisco, sarebbe l'ideale, ma di fronte alla chiusura di quei locali, è meglio che aprano locali magari moderni, gestiti da stranieri, come kebab, pizzerie, no, o cose diciamo, oppure meglio che restino chiusi? È una domanda che le faccio. Vabbè, pizzerie no, sicuro, però c'è gente che ha la buona volontà di riaprire un'attività, sì. ma questa attività mi hanno detto, così gira la voce, che viene impedito perché sono tutti locali, quasi tutti, sottoposti a sequestri da parte della magistratura, come i ristoranti di Campo dei Fiori, che erano tutti in mano alla malavita. Va bene, ora, Ferdinando, questo grazie, è un bel cortocircuito, cioè ci sappiamo che a Roma, è stato detto, ci sono delle infiltrazioni mafiose molto gravi, anche nelle attività commerciali, una buona parte, molti ristoranti in particolare del centro storico, è emerso che fossero controllati dalle attività di criminalità organizzata per il riciclo del denaro sporco e per altre attività losche, sono scattati in alcuni casi dei sequestri, però che dobbiamo fare? Consentire all'attività criminale di andare avanti? No, non credo, però bisogna reagire, bisogna riaprire questi negozi, bisogna dare linfa ai centri storici ed è lì che arriva la norma di cui abbiamo parlato questa mattina sulla tutela delle botteghe storiche, ma bisognerà vedere se avrà la forza di incidere in questo tessuto che, come emerge dalle telefonate, è abbastanza complicato nelle città italiane, soprattutto in quelle grandi, ma chiamateci anche dalle periferie, 800 24 00 24 o dalle città piccole. Ci risentiamo dopo il traffico. Con questo Fabri Fibra Speak English voglio andare in Inghilterra e vi ricordo che tutte le musiche le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24, pubblichiamo le playlist di tutte le puntate. Voglio andare in Inghilterra, c'è chi in Inghilterra c'è già stato ed è appena rientrato, è uno studente universitario ex Erasmus. Buongiorno e buon sabato a Dario Rizzo, ciao Dario. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, Dario è uno studente dell'Università di Siena di Economia e Gestione Intermediari Finanziari, è di Lecce, sei stato in Erasmus a Reading in Inghilterra, sei tornato da quanto? Guarda, io sono tornato in Italia da appena una settimana, quindi è ancora un'esperienza molto fresca. Qui ti gira ancora la testa, insomma, un po' dall'esperienza. Beh sì, a voglia, tra fuso orario, cambio monetario e viaggi, e anche sì, ancora gira. Le emozioni vissute, immagino, in Erasmus, che è sempre sono sempre bei momenti. Si studia, naturalmente, si fanno tante esperienze, ma ci si diverte anche. Ed è giusto così, a quell'età e in quella fase della vita. Ho fatto anch'io a Parigi. Dario, allora, tu intanto ti voglio chiedere, che aria tira, ne avrai parlato con i tuoi colleghi universitari inglesi, con i tuoi professori al bar o con altre persone, attorno a questo voto su Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Che racconti freschi ci puoi fare? Sì, diciamo che stando lì per 6 mesi, da gennaio fino ad ora, è diciamo il tema caldo, è impossibile non parlarne quasi con chiunque, colleghi, professori, adulti. E diciamo che quello che si può capire è un clima di indecisione, dubbio, nonostante ci sia da una parte fermezza nell'uscita e dall'altra parte fermezza nella permanenza. Diciamo che la popolazione che ho conosciuto io, che ho visto io, anche leggendo, non solo ascoltando, è una popolazione molto indecisa, potrei dire anche al 50% e 50%. Aspetta però, questo è interessante, divisa mi sembrava di aver intuito anche un po' indecisa, cioè sono nettamente polarizzate le posizioni, quindi grande divisione, o c'è anche una parte di inglesi che non sanno proprio come votare, non hanno ancora preso una posizione? Ecco, bravo, sei arrivato proprio al punto, cioè la maggior parte, soprattutto i giovani, non sanno proprio per chi schierarsi, perché comunque è una scelta bianco o nero. Lo studente inglese, diciamo che inglese, ora dico inglese perché sono stato in Inghilterra, però lo studente britannico, diciamo che guarda anche al suo futuro, non soltanto all'economia del proprio paese, inteso come Regno Unito, ma anche al futuro, la possibilità di andare a studiare magari in Europa, fare la stessa esperienza che ho fatto io, però al contrario, andando magari in uno stato dell'Unione Europea. E quindi diciamo che un po' ci pensa non una ma 5 volte prima di prendere una decisione del genere, perché come ben sappiamo la decisione del genere intendi la decisione di uscire dall'Unione Europea, cioè quindi sì, certamente perché tra gli studenti conseguenze... vuoi dire ci può essere forse una attenzione maggiore al tema del rimanere in Europa? Sì. Sicuramente sono molto focalizzati sull'informazione, l'informarsi prima di tutto, prima di prendere una scelta che magari può cambiare anche il loro futuro. Senti, ma invece una delle conseguenze è che sicure è che uscendo la Gran Bretagna dall'Unione Europea uscirebbe anche da tutti i progetti europei di scambio, di studi, andrebbero diciamo ripristinati singolarmente, bilateralmente con i vari paesi, ma insomma addio tutte quelle facilitazioni, addio borse di studio e sostanzialmente addio Erasmus. Anche di questo se ne parla un po', e cosa potrebbe cambiare per uno studente non europeo per andare a Londra? Non britannico, diciamo. Esatto. Diciamo che io mi sono un po' informato perché mi piace sempre essere sul pezzo, non soltanto il chiacchierare, il parlare, ma anche avere notizie, dati certi. Cioè, io sono venuto a conoscenza del fatto che Londra, parlo di Londra come capitale del Regno Unito, dovrebbe rinegoziare 35 accordi commerciali con altrettanti paesi europei, quindi qualcosa che cambierebbe veramente l'identità di di 4-5 stati, cioè qualcosa di veramente forte. Ovviamente questi cambiamenti non andrebbero subito in porto in caso di uscita dall'Unione Europea, ma si aspetterebbero circa 2 anni prima di farli andare in porto. Come hai detto tu, anche il programma Erasmus, essendo un programma europeo, avrebbe dei cambiamenti, anzi dovrebbe finire. Lo studente europeo che oggi va a studiare in Inghilterra, gli studenti come me che hanno fatto questa esperienza, che faranno questa esperienza se ci sarà la possibilità, le facilitazioni le hanno, perché non avendo la necessità di un visto, di anche l'accessibilità, la permanenza sul suolo britannico è molto semplice, è come andare da qui in Francia. Cambiando le cose, avendo bisogno di un visto, non so se magari tutti hanno la voglia di rendere la selezione, il passaggio, il viaggio qualcosa di ancora più prolisso. Che noi giovani comunque amiamo le cose semplici, le burocrazie sono qualcosa che oggigiorno magari le vediamo come un freno, e vedere un'ulteriore burocrazia in più, soprattutto che ci ferma, ci blocca il movimento, l'andare avanti, è qualcosa di veramente E questo, certo, Dario, naturalmente visto dagli occhi dello studente italiano europeo che è appena tornato dall'Erasmus in Inghilterra, ma abbiamo visto che anche con gli occhi dello studente inglese che potrebbe avere interesse a fare un periodo nel continente, in Europa, lo stesso tema della burocratizzazione è presente, quindi vediamo come l'uscita dalla Gran Bretagna dall'Europa, che gli inglesi vivono come una semplificazione, in realtà tanto semplificazione rischia di non essere. Io ringrazio te, Dario, bocca al lupo per i tuoi studi, grazie per essere stato con noi. Questa era la storia dell'italiano in Erasmus a Londra e come potrebbero non esserci più storie come queste tanto facilmente se passasse la Brexit. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, allora brivido al rientro Si può fare dopo la pubblicità, perché insomma c'è stato un attimo di silenzio. Abbiamo la introduzione musicale al prossimo argomento, dovremmo avercela, intanto mi voglio sincerare di questo. Sì, ce l'abbiamo. Allora ricordo il numero verde 800 24 00 24. Questa mattina siamo partiti dall'approvazione della norma sulla tutela delle botteghe storiche nei centri storici delle città italiane. Abbiamo raccontato come e perché questa iniziativa dovrebbe tutelare appunto i negozi storici nelle centri delle nostre città, e poi siamo andati con un studente italiano che ha appena terminato il suo Erasmus a Londra a capire quali saranno le conseguenze di Brexit sulla vita di questa particolare fetta di cittadini europei, cioè gli studenti universitari. Adesso 800 24 00 24, restiamo a Londra, parliamo della scelta del sindaco della città, il neo sindaco Khan, di vietare le pubblicità con modelli particolari. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Questa era l'introduzione musicale, non poteva che essere così. Modelli particolari, no, modelli, i famosi modelli belli e impossibili. Tutto nasce da una campagna con una ragazza in bikini che, rivolgendosi alle altre donne, dice: sei pronta per la prova costume? È una taglia, non lo so io, 42, 40, 30, una taglia piccola, molto piccola. E allora alcune donne hanno detto basta con l'esposizione del corpo femminile in questi termini. Insomma, da questa campagna è nata poi la decisione del sindaco di Londra di vietare, controllare, censurare, chi lo sa, insomma mettere sotto controllo queste forme di pubblicità che sono degradanti e offensive per le donne. Allora ne parliamo con Anna Maria Testa. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, sono molto contento che sei qui con noi oggi, Anna Maria Testa, per aiutarci a districarci in questo argomento che è molto sensibile, molto complicato, perché ci sono vari aspetti da tenere presenti. Intanto ti vorrei chiedere se da pubblicitaria, esperta di pubblicità e pubblicitaria tu stessa, sentiresti in qualche modo frustrata, minorata, aggravata da un peso a dover passare un controllo, un vaglio, una censura eventuale da parte del comune, dell'autorità comunale. Ma io credo che chi fa il mio mestiere debba porsi dei limiti, perché manda in giro delle immagini, degli slogan, delle frasi, degli appelli e delle sollecitazioni che influenzano poi l'immaginario collettivo, che orientano le persone. La pubblicità è fatta per essere efficace, quindi per orientare i comportamenti delle persone. Dobbiamo porci sicuramente dei limiti e di responsabilità professionale dei pubblicitari e delle aziende scrivevo già in tempi non sospetti, alla fine degli anni Ottanta, quando ho scritto un librino sulla pubblicità che si chiamava La parola immaginata, e dicevo proprio c'è bisogno di un atteggiamento di responsabilità, semplicemente perché mandiamo in giro appelli molto efficaci. La pubblicità che accetta di essere responsabile è una pubblicità che riconosce la propria efficacia anche d'altra parte. Poi però ci sono anche le pressioni di chi attraverso queste pubblicità deve ottenere dei risultati, vendere un prodotto. Secondo te c'è troppa esposizione, si usa troppo il corpo femminile in particolare nelle pubblicità oggi? A questo punto non parlerei tanto di televisione quanto di cartelloni pubblicitari, qua stiamo parlando della metropolitana di Londra. Sì, bisogna fare tante distinzioni, provo a farne alcune. Io non credo che dobbiamo censurare i corpi, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo sui corpi e ai messaggi che mandiamo. Mi spiego, è il tema della fissione in metropolitana, nella metropolitana londinese, non è tanto il fatto di aver mostrato una bella ragazza, non dobbiamo vietare l'esposizione delle belle ragazze, per carità. È l'appello che c'è dietro, parole e immagini interagiscono e le parole danno certe chiavi di lettura per certe immagini. Se uno mostra una bella ragazza non in costume da bagno e vende magari costumi da bagno, non c'è problema. Se però uno mostra una bella ragazza in costume da bagno e vende prodotti dimagranti e mi impone di uniformarmi a quel modello, come poteva essere il caso per esempio di quella pubblicità, come il caso londinese, sì. Mi si dice io sono una signora un po' in carne, non esattamente ventenne, passo di lì e mi vedo questo modello irraggiungibile che mi fa sentire a disagio. Allora questo va trattato con cautela, anche perché sappiamo che sul corpo le adolescenti possono sviluppare delle patologie come l'anoressia. Certo. Bisogna stare attenti. Ecco, detto questo, in particolare gli spazi pubblici che fanno capo all'amministrazione comunale, sì, devono essere rispettati. Ha ragione il sindaco di Londra quando dice: io posso spegnere la televisione, posso spegnere la radio, ma non posso spegnere un manifesto. Ah, questo è vero, questo è vero. Cioè, la forza del telecomando, nel caso della cartellonistica su strada, in particolare nei mezzi pubblici, non esiste. Quindi una sensibilità forse maggiore ci vuole. Un pochino di sensibilità in più ci vuole. Sì, prego. Io credo che più che di censura sia opportuno parlare, come mi sembra sia capitato a Londra, di linee guida, sì, appellandosi al buon senso, al senso di responsabilità e anche molto alla consapevolezza collettiva. Può darsi che si sia fatto un po' un polverone perché il neo sindaco di Londra è musulmano, quindi qualcuno ha fatto subito un'equazione. Sindaco di Londra, musulmano, stop censura a corpo femminile esposto senza limiti, uguale, qualche giornale ha proprio scritto: il sindaco di Londra vuol mettere il burka alle donne. Ma per carità, non credo che sia questo il caso. Sarebbe questo il caso se tutte le pubblicità londinesi con delle signore appunto in costume da bagno, i signori in mutande, succede, sono le fissioni che parlano di intimo, fossero state censurate, non mi risulta proprio. Credo, mi auguro, ma credo che sia stato così, che sia stato censurato il neanche tanto sottile ricatto ai passeggeri sul fatto che possano non avere quel corpo. Certo. Allora, facciamo una piccola pausa per il traffico. Anna Maria Testa, se puoi, vuoi, resta ancora qualche minuto con noi. Vorrei molto chiederti volentieri anche un paio di commenti sulla la nomination di Hillary Clinton, un modello femminile, anche questo. E poi anche un commento, però lì dovremmo zizzagare sui nomi dei candidati per evitare di entrare, siamo in silenzio elettorale, un po' come è stata dal punto di vista della comunicazione questa campagna elettorale. Qualcuno dice una campagna elettorale per un voto contro, si sono sottolineate di più le carenze dell'avversario che non le proprie proposte. Voglio un tuo commento sulla comunicazione in campagna elettorale. Ascoltatori 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il traffico. Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Con noi c'è Anna Maria Testa, le abbiamo chiesto un commento sulla decisione del sindaco di Londra che dopo che alcune migliaia di donne erano scese in piazza, avevano lanciato anche dei post in rete contro una pubblicità considerata sessista perché c'era una modella, una pin-up che occhieggiando dai manifesti della campagna pubblicitaria diceva hai un corpo pronto per l'estate, sei pronta per la prova costume, era una sfida talmente invincibile da lasciare interdetti, e da lì la decisione del sindaco di Londra di vietare questo tipo di pubblicità. Anna Maria Testa, da un modello femminile all'altro, Hillary Clinton è un successo sicuramente dell'universo femminile, però insomma non so quanto tutte le donne americane potranno immedesimarsi in lei, che non tutte sono ex mogli di un mogli di un ex presidente della Repubblica o loro stesse a avere una carriera politica così già alle spalle. È una donna dell'establishment, insomma, ecco, ovviamente questo è vero. Comunque la candidatura di Clinton adesso ci toccherà dire della Clinton, anche se non si dovrebbe, per distinguerla dal Clinton lui. Perché tu sai perché non si faccia questo tipo di distinzione lessica? Di solito no, ma in questo caso la candidatura di Hillary, che è passata anche attraverso degli attacchi pesantissimi sul corpo. Non dimentichiamoci che agli inizi della campagna elettorale erano usciti gli appelli dicendo non vogliamo vedere questa donna invecchiare davanti ai nostri occhi. Ah, certo. Cosa ecco, che naturalmente nessuno si è mai sognato di dire per Donald Trump. Ma certo. È importante perché per le donne oggi ci sono... Le donne oggi viaggiano fra tantissimi stereotipi, tantissimi, perché i vecchi stereotipi della casalinga con la zuppiera in mano, della mamma sempre amorevole, della signora sempre per bene con la collana di perle e mai un capello fuori posto, si sono aggiunti altri ulteriori stereotipi, la manager vincente, la ragazzaccia, però viaggiamo sempre più caricate di stereotipi, oltretutto non possibili da emulare, sì, tutti assieme. A questi poi si aggiungono ulteriori stereotipi che dicono le donne non sono brave con la matematica. E cioè sempre quando c'è la parola donna, il concetto femminile, si cerca di mettere un'etichetta. Le donne non guidano bene, peraltro non meno incidenti, ma pazienza. Il tema vero è che ci sono dei meccanismi psicologici ampiamente studiati che dicono che quando gli stereotipi sono molto diffusi, molto pesanti, involontariamente le persone tendono, ma anche le persone colpite dallo stereotipo tendono in qualche modo a uniformarsi. È quello che capita per esempio con la matematica. Le prestazioni in matematica, questo è curioso, sono tanto migliori nei diversi paesi quanto maggiore è la parità fra i generi. Questo non è male. Quindi vuol dire che non è un fatto cognitivo, ma è un fatto legato anche all'immagine, al costume, a una cultura condivisa. Quindi ben venga Hillary Clinton, anche se Hillary si paga Clinton il prezzo, che è moglie dell'ex presidente, eccetera, eccetera. Quindi una donna dell'establishment, però tu dici è una donna reale, una figura femminile che avrà un ruolo. E ci sarà... dice che può sopravvivere anche agli attacchi di torniamo sul corpo, eccetera. la seconda donna importante, non giovanissima, che prende, che va, sta candidando, insomma, che può essere a capo di un grande paese del mondo, ci dice che forse i tempi stanno cambiando, e soprattutto porta donne vere dentro l'immaginario collettivo. Ecco, questo mi sembra fondamentale. Donne vere a confrontarsi con l'immagine di una donna vera. Abbiamo bisogno di tanti, tanti, tanti modelli di ruolo diversi. Diversi, di modelli di ruolo di successo, modelli di ruolo che non siano imitazioni grottesche anche, certo, dei percorsi di successo maschili. Sì. Io faccio un tifo sfegatato per Fabiola Giannotti, certo, e vorrei che fosse 100 volte più nota in Italia di quanto non è. Ma poi speriamo soprattutto anche che sia un buon presidente, questo lo aggiungiamo, perché non dimentichiamo che il suo ruolo sarà quello. Senti, voglio chiederti anche se non possiamo entrare nei dettagli, perché siamo alla vigilia del voto per questo ballottaggio amministrativo, che tipo di campagna elettorale è stata dal punto di vista della comunicazione? Ci sono delle novità? Qualcuno ha detto molti attacchi agli altri, poche proposte, ma questo mi sembra abbastanza un classico in campagna elettorale. In campagna elettorale, specie sul territorio, si gioca a fare o delle proposte impossibili semplicemente per guadagnarsi un po' di attenzione sui mass media, o si cerca di portarsi a casa il più possibile di voti pescando tutti i bacini elettorali. Quindi è ovvio che le proposte siano un po' ondivaghe. Questa è stata una campagna lunga, funestata sì da attacchi incrociati, però io non riesco a generalizzare. Ciascuna campagna elettorale territoriale ha avuto le sue caratteristiche. Se ci fosse una ricetta universale della buona campagna elettorale o della buona comunicazione politica, sarebbe tutto molto più facile. Certo. Mentre non è così, ciascun candidato nel suo territorio con il suo avversario, sì, deve affrontare il suo problema. Mm. I problemi che posso avere in una grande città italiana. Ecco, esatto. Quindi confrontarsi realmente, al di là poi degli aspetti proprio puramente di comunicazione e di propaganda. Ecco, ma secondo te oggi, perché c'è stato uno degli ultimi casi, non faccio il nome, un politico romano che è andato non era un candidato, in un mercato, in una periferia, si è preso una valangata di insulti. Ci sta, per l'amor del cielo, è anche normale, insomma, che ci sia, soprattutto in una città come Roma, che ha avuto problemi grossi con le precedenti amministrazioni. Ma come si gioca? Quali sono gli strumenti oggi della campagna elettorale? TV, web, e questo andare nelle periferie, andare nei quartieri, battere la strada e parlare conta ancora? Si è pensato che la televisione e la rete rendessero inutile il presidio dei territori. Non è per niente così. Anzi, la rete va integrata con un presidio dei territori. Alcuni partiti storici italiani hanno smesso di presidiare i territori e si sono visti i risultati. Alcuni partiti italiani sono meno bravi di altri nell'andare in rete, che non vuol dire apro un sito e aspetto che la gente ci vada. Significa interagire con le persone. La rete ha sicuramente, ma lo sappiamo tutti, aperto delle nuove, grandi, importanti, difficili prospettive per il lavoro politico, per il messaggio politico, che secondo me non sono neanche tutte quante ancora conosciute. Non dimentichiamoci che, per esempio, per un attimo in America, sì, l'elezione di Obama è stata un regalo della rete. È stata la prima grande elezione mondiale che si è giocata anche in rete, parliamo ormai di 8 anni fa. Però non si gioca tutto solo, naturalmente, lì, anzi, tu dici il contatto reale con gli elettori. I media vanno integrati, vanno presidiati, vanno usati nella maniera più adeguata, e ciascuno fa il suo pezzetto di lavoro. una campagna politica nazionale è oltretutto diverso da una, molto diverso da una campagna, territoriale locale, come quella delle elezioni comunali. Il territorio è davvero fondamentale. E vedremo come risponderanno i territori a, intanto all'affluenza al Leone per questo ballottaggio. Intanto grazie ad Anna Maria Tassi. Andate a votare, dai. Questo sì, questo possiamo dirlo, senza infrangere il silenzio elettorale. Ciao, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, ciao. Ciao. This Girl di Kansas Cooking On, segnalata da Alberto La Luca, e continuate a segnalarci i vostri Si può fare in musica. Noi ve li proponiamo ogni sabato mattina più o meno a quest'ora, e insomma potete scriverci alla mail si può fare @radio24.it, oppure ci contattate sui nostri social si può fare @radio24 la pagina Facebook, si può fare 24 l'account su Twitter, e il mio è @AleMaurizzi. Cari ascoltatori che ci avete chiamato all'800 24 00 24, noi vi abbiamo proposto questa mattina di giocare con noi a raccontarci la vostra terribile esperienza in un ristorante. È una specie di legge del contrappasso nella settimana in cui Massimo Bottura, chef Bottura, si è piazzato al primo posto nella classifica mondiale dei migliori 50 ristoranti. Beh, insomma, una bella soddisfazione per lui, per l'Osteria Francescana, per la cucina italiana. Però a volte le cose non vanno per il verso giusto. Potete sfogarvi questa mattina in diretta ai microfoni di Radio 24. C'è Vilma che ci chiama da Milano. Buongiorno Vilma. Buongiorno, grazie per avermi chiamata innanzitutto. Senta, io volevo dire un'esperienza non a livello di cibo o di sapori o altre cose. Anzi, tutto buono, andavo a mangiare una pizza. Alla fine della pizza il cameriere gentilmente, ero con la mia famiglia, ci voglio offrire centerbe. Noi non beviamo alcol, per cui vabbè. Cos'è, un amaro? Un amaro? No, era molto, aveva non so se 50 o 60 di alcolicità, molto forte, il liquore con 100 erbe particolari, e quindi ha un'alcolicità terribile. E che noi non sapevamo logicamente. Poi ce lo fece, siccome è molto forte, addirittura ce lo fece, versò alcune gocce sulla zolletta di zucchero, che ovviamente altera ancora maggiormente l'altera ancora di più. E cosa è successo? Per cui, dopo che lo mettiamo in bocca, gli uomini diventarono rossi, ma noi, soprattutto mia sorella, si ustionò completamente il labbro. Si è ustionata il labbro per via di un amaro servito? Non era un amaro, no. Di un centerbe. Centerbe, poi se serviva per digerire, non so. Però si chiama centerbe ed è alcolico di già. Poi se uno lo mette sullo zucchero, diciamo, questa è una cosa che si sa, l'alcol con un goccino di zucchero aumenta la sua alcolicità Vabbè, la prima cosa, allora, grazie anche a Vilma per aver chiamato. La prima cosa che mi viene da dire è che la base di tutto è non intossicate, cari ristoratori, non bruciate la lingua ai vostri e le labbra ai vostri clienti. Insomma, la base di tutto è non far male. Poi già se uno esce sano è già andata bene la serata al ristorante. Questo mi viene da dire dalle vostre chiamate. Però mi piacerebbe anche che e ci chiamasse per raccontarci com'è andata in un ristorante di alta cucina, perché quando parliamo di Bottura parliamo naturalmente di un certo tipo di cucina, alta cucina. Paola da Mirandola, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire Paola? Niente, io sono proprietaria di un negozio storico di Mirandola. Sì. E mia madre l'ha aperto nel 1976 e quindi quest'anno festeggiamo 40 anni. Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Per me è un grande onore, anche perché noi nel 2012 abbiamo subito un terremoto, sì, e io sono stata costretta ad uscire dal mio negozio storico, quindi dopo essere lì da 35 anni e spostarsi e andare da un'altra parte è stato all'inizio veramente traumatico. Un negozio di che cosa, Paola? Di abbigliamento femminile. Sì, di abbigliamento femminile. Tra l'altro il mio negozio è in angolo e guarda la piazza del Duomo. Tutte le nostre chiese, il municipio sono stati ovviamente distrutti dal terremoto. La cosa alla quale tengo e mi voglio proprio riallacciare a quello che lei riferiva prima, sì, è questo, cioè l'importanza dei negozi nei centri storici. Immagino poi in particolare anche in un centro storico colpito dal terremoto come quello di Mirandola. Esattamente, veramente, oltre al fatto, e questo io me ne sono proprio accorta nel momento in cui c'è stato il terremoto, perché nel momento in cui c'è stato il terremoto la nostra vita per tutti è cambiata radicalmente, cioè quindi hanno chiuso il centro storico ed era, non si poteva più accedere per dei mesi. Quindi insomma immagino la soddisfazione poi di essere enorme, potuti tornare, certo, al proprio posto. Soprattutto avete ragione, ecco perché l'importanza, sì, delle botteghe è quella che noi abbiamo anche, noi non solo commercialmente, ma noi abbiamo un aspetto sociale, cioè quello di riunire la gente. La gente gira, guarda le vetrine, si incontra. Questo noi proprio l'abbiamo toccato con mano col terremoto. E nel momento in cui c'è stato il terremoto, immagino che questa tendenza si sia anche in qualche modo acuita, cioè nel momento di maggiore difficoltà, poi il negozio diventa ancora di più un punto nel quale si va a parlare, si va a sfogare, si va a raccontare anche i fatti propri, ma si vanno a condividere anche i problemi di una città colpita dal terremoto. Complimenti a Mirandola che comunque riesce a riaprire i suoi negozi nel centro storico. Fabio da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Benvenuto. Volevo intervenire appunto sulla chiusura dei negozi nei centri storici. Sì. Dunque, io ho un negozio anch'io in un centro storico, in una piccola provincia, per l'amor di Dio, e quindi parlo con cognizione di causa. La voce numero uno di costo per un, sì, piccolo commerciante è spesso l'affitto. L'ho detto, certo, quindi, l'affitto. Cosa succede? Oggigiorno, se si cercano nuove alternative di posizione, di location, come si dice in gergo, gli affitti sono ancora molto alti, per quanto si siano leggermente abbassati nell'ultimo anno. Se fossimo in uno stato serio, sì, o comunque l'amministrazione pubblica dovrebbe fare in modo di intervenire verso, io pago l'affitto, non sono proprietario dei muri, dovrebbero fare in modo che se un proprietario di un fondo testimonia con un contratto che l'ha affittato, dovrebbero sgravarlo dalle tasse, magari non facendo di più pagare l'IMU, per esempio. Certo, una forma di incentivo fiscale a chi è proprietario di questi fondi che poi vanno affittati ai negozi affinché vengano concessi con affitti magari non tanto alti, magari anche ad alcune di queste botteghe storiche, di questi negozi che hanno anche un valore sociale, può essere la libreria, può essere il cinema, può essere qualunque cosa, credo, no Fabio? Penalizzerei chi invece, sì, mantiene delle richieste eccessive, sì, e quindi, non so, ha da 2 o 3 anni il fondo sfitto. Perché chiede un affitto molto alto, nessuno risponde all'appello, e allora in quel caso lei dice andrebbe disincentivato dal punto di vista fiscale, magari non facendogli pagare qualcosa in meno, ma forse addirittura qualcosa in più. Io sono d'accordo, Fabio, sono d'accordo. Non so questo quanto... Sì. Mi sia piaciuta, va bene. Va bene, grazie Fabio. Non so quanto questo sia fattibile dal punto di vista fiscale o sia già fatto, però ecco, adesso abbiamo un'occasione, questo decreto sulle botteghe storiche di cui vanno definiti i contenuti, il tema degli incentivi, dei disincentivi eventualmente fiscali, è tutto aperto. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. E allora, cari ascoltatori, quello che avete appena sentito è la sigla provvisoria, perché siamo neanche al numero zero, ma siamo alla presentazione di un appuntamento fisso che ci sarà dentro Si Può Fare tutti i sabati mattina a quest'ora, una rubrica dedicata al crowdfunding, al finanziamento dal basso di imprese, ma anche progetti, iniziative, progetti sociali, culturali, ambientali, quasi la qualunque, ma non proprio la qualunque. Ne parliamo con i protagonisti, le persone che ci daranno daranno una mano e ci proporranno questi progetti che noi metteremo al vaglio ogni settimana. Due storie che cercano un finanziamento dal basso. E allora sono con noi Alberto Bassi, amministratore delegato di Back to Work. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Fabio Signorelli, partner di Eppela, che è una delle principali piattaforme di crowdfunding oggi in Italia. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Fabio Simonelli, non Signorelli. Scusa, buongiorno. Fabio, ma come si fa a sbagliare così i nomi dei propri partner? Io mi domando. È questo... la puntata zero. Fatto prove. Come è possibile? Vabbè, dai. Allora, intanto vi chiedo questo, presentatevi, cioè spiegate agli ascoltatori, prima di parlare poi quello che faremo nell'appuntamento, nella rubrica, di cosa vi occupate. Cominciamo con Alberto Bassi, numero uno di Back to Work, che fa parte del gruppo 24 Ore. E fra l'altro noi vi avevamo già presentato, perché siete un bel caso anche qui di aiuto alla giovane imprenditoria, alle aspirazioni dei giovani che vogliono fondare le startup, ma mettete insieme anche un'altra parte, cioè l'esperienza, il know-how, si dice in inglese, di chi invece ha una capacità matura sul mercato del lavoro. Bassi. Sì, Back to Work si occupa di portare il finanziamento privato, l'investitore privato, verso il mondo della piccola impresa o della startup. Portiamo capitali che sono necessari per la crescita, per aiutare la crescita, ma soprattutto portiamo le competenze professionali, che sono di fatto fondamentali se una startup, una PMI vuole veramente fare il salto di qualità. Competenze professionali di manager di alto livello, di esperienza, con trascorsi in grandi medie imprese, che si mettono al servizio della piccola impresa e portano soprattutto i capitali verso l'economia reale. Ok, e invece passiamo dall'altra parte. Fabio Simonelli, partner di Eppela. Il crowdfunding molti lo conoscono, ma magari non tutti lo conoscono. Quindi cosa è e cosa fate voi? Allora, il crowdfunding è una nuova modalità di finanziamento dal basso, quindi una nuova modalità per cui chi ha un progetto, chi ha un'idea, chi ha un prodotto, chi ha una startup, chi ha una piccola e media impresa, può attivare una campagna per raccogliere dei soldi che servono poi a sostenere la realizzazione del proprio progetto, e attraverso il coinvolgimento della rete questo progetto può aver vita. Quindi si sfrutta quello che è oggi la velocità della rete, la possibilità di accedere a delle forme dei capitali attraverso diciamo degli strumenti che insieme a Back to Work e a voi di Radio 24 metteremo a disposizione proprio anche dei progetti stessi. Certo. E permetteremo appunto ai progetti e alle startup di avere un boost per accedere a una forma di finanziamento che oggi è assolutamente innovativa, ma è diciamo anche necessaria in un momento dove magari l'accesso al credito è un pochino più difficile. Saremo noi di Si Può Fare di Radio 24, ma insieme a voi di Apple e Back to Work, che ogni settimana sceglieremo tra le tante storie che ci sono e che voi stessi manipolate, avete nel vostro archivio, nel vostro bagaglio, a proporre due storie che saranno significative, magari quella settimana perché c'è un tema di attualità, magari semplicemente perché hanno colpito la nostra fantasia, ma sono tante le storie, saranno tante di più ancora le storie che saranno alle spalle delle due protagoniste di ogni puntata, e ogni settimana potete poi andare a curiosare sui siti, sulle piattaforme, vi daremo tutte le informazioni per poter essere aggiornati in maniera completa. A proposito del crowdfunding, uno dei meccanismi da sottolineare è quello che, qui parlo proprio agli ascoltatori, finanziatori, aspiranti finanziatori di idee, sappiate che c'è sempre un meccanismo di ricompensa, no? Perché questo è uno degli aspetti, a volte possono essere ricompense simboliche, a volte anche meno, Simonelli, no? Assolutamente, lì entra proprio in gioco la creatività di chi lancia un progetto. La definizione di una ricompensa, che è ovviamente proporzionale al livello di offerta che viene fatta su un progetto, è quel quid che permette al progetto stesso di acquisire quell'interesse verso la rete. Quindi quello che metteremo in campo è proprio anche una sfida nei confronti dei progettisti, affinché il prodotto che verrà messo a finanziamento possa diventare esso stesso intanto una ricompensa, perché poi il crowdfunding è anche una modalità per cui si può fare preordine su un progetto o su un prodotto. Ma poi ecco, il nostro compito è quello proprio di lavorare sull'engagement, quindi sulla creazione di un'interazione fra, certo, chi vuole testare un'idea e chi potenzialmente e questi, può essere interessato. Questo ingaggio sicuramente è migliorato, è reso ancora più snello dal meccanismo della ricompensa. Alberto Bassi invece di Back to Work, qua noi stiamo scommettendo su una nuova generazione di imprenditoria giovanile. Possiamo star tranquilli perché qua a volte i dati, le statistiche ci vogliono mettere qualche dubbio, no? Che non è così, che le cose non vanno. Invece noi qui abbiamo del materiale. Io le statistiche non le guardo, perché quello che vedo tutti i giorni nel nostro lavoro sono voglia di fare da parte di giovani imprenditori che hanno delle idee brillanti e che purtroppo magari per mancanza di capitali o mancanza di competenze professionali non riescono a sviluppare, e dall'altro lato c'è pure la voglia di investire in qualcosa di diverso, di investire la propria esperienza, il proprio capitale messo via in una carriera lavorativa all'interno di una piccola impresa, di un progetto innovativo. Quello che andremo a presentare poi sono anche delle belle storie, delle storie da raccontare che hanno soltanto bisogno di un boost iniziale per poter essere vincenti, per decollare veramente. Bene, grazie. Allora, appuntamento alla settimana prossima con Back to Work ed Eppela, con questa nuova rubrica Crowd Me Up. A sabato prossimo iniziamo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24, parlate italiano, chiede un ascoltatore al 348 28 6666. Io vi devo confessare che sono stato sopraffatto perché avrei preferito dare un nome italiano, ma sapete, crowdfunding è una parola che è inglese perché l'iniziativa viene dal mondo anglosassone, hanno iniziato lì a fare i finanziamenti dal basso, e allora in questo caso noi gli andiamo dietro, perché se il fenomeno è inglese usiamo la parola inglese per una volta, così vedete che la mia totale incoerenza sulla battaglia per l'uso dell'italiano, no, la coerenza sta in questo, nel fatto che in questo caso, proprio perché il fenomeno è viene da quel mondo, abbiamo deciso di utilizzare questa espressione. La rubrica si chiama Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Inizieremo sabato prossimo. Non so se abbiamo un ascoltatore in linea. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Allora, visto che siamo comunque quasi in chiusura, ci stiamo approssimando all'orario in cui lasceremo la linea al giornale radio, nuovo appuntamento con Radio Immaginaria, i nostri amici, ragazzi, bambini tra gli 11 e i 17 anni che stanno facendo insieme a noi questo viaggio nel mondo del bullismo. Sentiamo questa settimana che cosa ci propongono i colleghi di Radio Immaginaria. Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, hai capito? Smettila, dai, non ti ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Ciao a tutti amici di Radio 24, noi siamo ancora quelli di Radio Immaginaria, la prima e unica radio di adolescenti in tutta Europa, fatta da ragazzi dagli 11 ai 17 anni. E questo è ancora Cacciabulli ormai da settimane, ci conoscete? È il programma che spiega il bullismo come lo viviamo noi ogni giorno. E questa è la prima storia. Io sono una ragazza originaria del Congo e all'età di 9-10 anni alle elementari, un mio compagno durante l'ora di religione mi disse: stai zitta, negra di... E potete immaginare la parola seguente. E dopo tu cosa hai fatto? Mi misi a piangere, però i miei compagni mi consolarono e la mia prof di religione gli diede una nota a questo mio compagno. Beh, ma questo comunque è un insulto pesante. Io non penso che un bambino delle elementari possa pensare certe cose. Quindi, secondo te le ha sentite da qualcun altro, da un adulto, dai suoi amici? Sì, secondo me l'ha sentito da qualcun altro, da un suo amico, penso. Però non so adesso come si comporti, perché ci siamo persi un po' di vista alle medie. Secondo me chi offende, ovvero i bulli, lo fanno soltanto per sentirsi chissà chi, oppure per sentirsi superiori agli altri. Sì! Sì. Un quindicenne da Napoli ci ha mandato una lettera a radioimaginaria@gmail.com e ora ve la leggiamo. Radio Immaginaria, La mia esperienza personale col bullismo è iniziata in prima media ed è durata tutti e tre gli anni delle medie. Venivo bullizzato e picchiato da più di una ventina di bulli in tutta la scuola, tra compagni di classe e ragazzi di altre sezioni, solo perché non parlavo tanto, perché portavo gli occhiali e perché qualche volta prendevo un 6 nelle varie materie. Mi trattavano male solo perché non ero come loro. Mi prendevano in giro per il mio aspetto fisico, arrivando poi ad insultarmi mettendo in mezzo anche la mia famiglia. Io ci rimanevo male e venivo isolato da tutta la classe, ma quando provavo a difendermi, i professori mi bloccavano, chiamando i miei genitori a casa perché pensavano che se avessi preso le distanze non mi sarebbe successo niente, stando così dalla parte dei bulli anche in modo indiretto. Ai bulli non faceva nessun effetto se ricevevano tantissime note scolastiche e sospensioni. Ora che sono arrivato alle superiori non ho più questi problemi, non vengo più isolato dalla classe e ho tanti amici. Io penso che sia necessario dire sempre cosa vi succede e ricordare di mantenere sempre un atteggiamento indifferente nei confronti del bullo. Oh yeah! Il bullismo per me è sinonimo di debolezza. Penso che chi lo pratica è come se avesse una maschera per nascondersi dalle proprie fragilità, trasformando poi in rabbia ciò che non riesce a descrivere. Per me il bullismo è una cosa stupida, perché non ti rende felice far piangere gli altri. Secondo me i bulli sono quelle persone che si vogliono sentire superiori, però non fanno poi niente per dimostrarlo. Quindi il loro unico modo per emergere sarebbe di abbassare gli altri, soprattutto quelli che secondo loro sono riusciti a primeggiare grazie ai loro meriti. E non solo per la forza fisica. Listen. Queste erano le storie di questa settimana. Ragazzi, è importantissimo parlarne, mi raccomando. Fatelo con chi vi può ascoltare. Per esempio con noi di Radio Immaginaria, scrivendoci una mail a radioimmaginaria@gmail.com. Quindi noi aspettiamo le vostre storie e ci sentiamo alla prossima. Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, capito? Smettila, dai, non ti ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. E allora, questo era l'appuntamento con Radio Immaginaria, cari ascoltatori. Siamo in chiusura, però c'è tempo per sentire la voce di Lorenzo, che chiama da Bologna, in un minuto per chiudere la puntata di oggi. Ciao Lorenzo, cosa volevi intervenire? Buongiorno, volevo parlare di crowdfunding e della mia esperienza, o meglio, della mia non esperienza. Sì? Brevemente, nel 2012 mi era venuta un'idea, vale a dire quella di fare una bicicletta elettrica, o meglio di elettrificare una tipologia di bicicletta che stava iniziando ad andare molto di moda, cioè certo, quelle ruote larghe, grosse, le fat bike, fatta con il motore centrale, quindi con il top delle caratteristiche, l'ho messa in bello, ho fatto la produzione. L'ho messa in serie e l'ho messa in vendita a circa 1700 euro. Con un ritardo di 2 anni, ha avuto un buon successo. Con un ritardo di 2 anni, quindi a fine 2013, vado sul sito del numero 1 del crowdfunding mondiale, che nella fattispecie è americano, e mi trovo un progetto di biciclette elettriche nel quale c'è la stessa tipologia di prodotto e in fase di prototipo lo stesso richiede. Cioè, l'avevano fregato l'idea, Lorenzo? L'avevano fregato l'idea? Non è che l'avevano fregato, non so dire, perché ovviamente non è che fosse un'idea totalmente originale. La problematica che volevo sottolineare era che questo personaggio, nella fattispecie canadese, era riuscito ad accedere alla piattaforma numero uno del mondo del crowdfunding, aveva fatto la fase di prototipo solamente e grazie ai preordini in un mese e mezzo è riuscito a raccimolare. Devo chiudere però, Lorenzo, dollari. Devo chiudere, mi dispiace, non ho più tempo perché c'è il giornale radio. Esperienze di crowdfunding, ne parleremo ogni sabato mattina con due storie con Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, a partire da sabato prossimo. Grazie a tutti, Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Lauricella. Noi ci risentiamo domani con una puntata registrata, sabato prossimo in diretta. Ciao a tutti da Alessio Maurizi.